Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi si vota in Francia, un voto molto importante non soltanto per quel paese ma per la tenuta di tutta l'Unione Europea e anche per verificare quale sia il grado di scollamento della società francese, quale sia anche l'adesione ai temi della sinistra che sono stati messi pesantemente in discussione dal risultato precedente. Allora ricordiamo questo appuntamento che si sta per concludere e di cui fra poco conosceremo i risultati, con un grande intellettuale liberale francese, uno dei più importanti del Novecento, non soltanto per il suo paese, cioè Raymond Aron, di cui torna un libro molto importante del 1955, quasi del tutto ignorato in Italia in tutti questi anni, nonostante sia stato poi considerato uno dei più importanti titoli della saggistica del Novecento, e cioè L'oppio dei popoli, che viene riproposto adesso da Lindau. 428 pagine, 32 euro, con la traduzione di Teresa Compagna. Perché quel libro fu ignorato in Italia? Perché certamente è uno dei più spietati, documentati ed efficaci atti d'accusa contro il conformismo degli intellettuali francesi, che in larga misura negli anni 50, quando il libro fu scritto, si erano schierati col comunismo e con l'Unione Sovietica ancora staliniana. Di Aron abbiamo accennato qualche settimana fa quando parlai del libro di Sarah Bakewell su Sartre, collega di studi e grande amico di Aron, col quale poi ruppe proprio per la diversa deriva ideologica politica che i due intellettuali presero, appunto Sartre fiancheggiatore del comunismo e Aron sempre più liberale. E chiarissima è l'ispirazione di questo libro, che così lo stesso autore spiega nella prefazione: nel tentativo di spiegare l'atteggiamento degli intellettuali implacabili verso le debolezze della democrazia ma indulgenti nei confronti dei più grandi crimini purché perpetrati in nome delle buone dottrine, per prima cosa mi sono scontrato con le parole sacre: sinistra, rivoluzione, proletariato. La critica di questi miti, osserva Aron, mi ha portato a riflettere sul culto della storia e poi a interrogarmi su una categoria sociale alla quale i sociologi non hanno ancora riservato l'attenzione che merita, l'intelligenza. Fin qui appunto Aron, il quale in questo libro mette appunto alla berlina il conformismo dei suoi colleghi intellettuali, di cui discute poi nella prefazione Angelo Panebianco, che adesso sentiremo per rivolgergli alcune domande sull'importanza di questo libro. Buonasera a Angelo Panebianco. Buonasera. Angelo Panebianco, lei ha introdotto questo libro di Raymond Aron, che è un libro del 55 che parla di intellettuali comunisti, apparentemente un libro anacronistico, invece molto attuale, come le spiega nella sua introduzione. Sì, è attuale perché prende di mira quel mondo intellettuale non solo comunista, ma anche a quell'epoca, all'epoca della Guerra Fredda, composto da fiancheggiatori dell'allora PCF, del Partito Comunista Francese, e in realtà la sinistra europea. Gli esempi principali sono francesi, ma ha in mente anche molti altri esempi europei, di un mondo intellettuale che fatica a fare i conti con la realtà o con quelle che Bobbio chiamava le dure rettiche della storia, che usa delle categorie a priori senza mai fare i conti con ciò che accade davvero nel mondo. Certamente Aron aveva in mente anche i suoi compagni di gioventù, che erano diventati a quel punto suoi avversari, in particolare Jean-Paul Sartre, di cui era legatissimo in gioventù e col quale rompe proprio per ragioni politiche alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Credo che quel mondo intellettuale esista ancora, anche se la fine della Guerra Fredda ha cambiato i punti di riferimento di tutti quanti, ma per esempio l'ostilità nei confronti dell'economia di mercato credo che ci sia oggi esattamente come c'era a quei tempi, anche se allora poteva fare usare una ideologia forte come il marxismo per giustificarsi, per trovare consensi ed essere giustificata agli occhi di coloro che ascoltavano questi intellettuali. Infatti oggi tutti si dichiarano contro il comunismo, contro quei regimi comunisti, però molti elementi del risentimento contro la civiltà liberale, il mercato, la libertà individuale resistono molto fortemente tuttora. Quale sarebbe l'oppio che Aron fustigherebbe e denuncerebbe oggi, secondo lei? Secondo me sì, prenderebbe di mira le frasi fatte contro la civiltà liberale, che continuano a essere più o meno le frasi fatte di un tempo. Oggi leggevo scampoli della prosa di un politico di questi emergenti che se la prende contro il dio mercato e coloro che difendono il dio mercato. Naturalmente affermazioni fatte senza nessuna conoscenza dei dati della realtà, senza sapere che cosa sia un mercato e così via. La cosa drammatica è che non sono soltanto questi politici di nuova estrazione e di scarse letture, ma anche fior di intellettuali che continuano e con solida cultura alle spalle, che continuano a dire sulla civiltà liberale e in particolare sul mercato cose totalmente sbagliate e cose smentite dalla storia del XX secolo e successiva. In generale bisogna ricordare che c'è stata da parte di molti di questi intellettuali una grande rimozione. Pochi di loro hanno fatto i conti dopo la caduta del muro di Berlino con il loro passato. Qualcuno sì, i più seri sì, ma gli altri hanno fatto finta di niente, hanno cambiato casacca fingendo che nulla fosse accaduto e naturalmente queste persone hanno sostanzialmente mantenuto gli atteggiamenti di un tempo. Quando non c'è nessuna vero ragionamento critico sul passato e sui propri errori, è evidente che il passato torna e si ripresenta più o meno con le caratteristiche che aveva un tempo. Lei definisce nella sua introduzione l'autore Raymond Aron come lo studioso del XX secolo, quasi che fosse lo studioso per antonomasia. Che ruolo svolse da questo punto di vista Raymond Aron? Aron, che era nato filosofo e in realtà era destinato a una vita di insegnante di filosofia, la sua vita incontra una svolta quando si trova a studiare in Germania nei primi anni 30, tra il 30 e il 32. In quel momento incontra le scienze sociali tedesche e soprattutto incontra Max Weber, che diventa un autore per lui di riferimento con cui dialogherà idealmente per tutta la vita. Cioè incontra una sociologia diversa da quella che aveva conosciuto in Francia, cioè una sociologia che ha l'ambizione di orientare l'agire politico. E questo lo colpisce molto. In più, contemporaneamente, vede l'agonia della Repubblica di Weimar e si accorge che la tragedia sta di nuovo incombendo sull'Europa. Allora, questi due fatti lo convincono ad abbandonare la filosofia pura e a passare all'analisi della situazione presente. Lui sarà un grande studioso del XX secolo in tutti i suoi aspetti, l'economia, la politica, le dinamiche politico-militari e ideologiche. L'Oppio degli intellettuali è un libro che ricade in questa parte di questa vasta ricerca sul XX secolo e sui suoi caratteri di fondo. A un certo punto del libro Raymond Aron ricorda, anzi richiama, l'importanza del rispetto reciproco e dunque la fallacia del mito rivoluzionario. Scrive: la violenza degli uni contro gli altri è la negazione, talvolta necessaria, sempre evidente, del riconoscimento reciproco che deve unire i membri di una collettività. Distruggendo rispetto e tradizioni, essa rischia di distruggere le fondamenta della pace tra i cittadini. Oggi questo rispetto non c'è più, allora siamo alle soglie di una nuova rivoluzione? Ma questo è molto difficile dirlo. Certamente le democrazie liberali, molto imperfette, sono in grave affanno. In parte sono anche in affanno a causa del fatto che vinsero. La scomparsa del nemico di fondo, ha avuto nel lungo periodo degli effetti debilitanti sulle democrazie liberali. E si aggiunga il fatto che poi è arrivata una grave crisi e lunga crisi economica che ha naturalmente creato polarizzazione, divisioni, risentimenti e così via. No, io non mi azzarderei a dire che siamo alla vigilia di una fase rivoluzionaria. Certo, ci sono molti segnali poco tranquillizzanti da questo punto di vista. E questo libro, che ricordo è del 1955, poi si conclude con un capitolo che è una domanda forse retorica, ma certamente premonitrice, perché si intitola Fine dell'età delle ideologie, col punto interrogativo, quasi a preconizzare un mito col quale ci stiamo continuando a baloccare, appunto la fine delle ideologie, di cui sì, Aron vide il segno nel diffondersi di un sano scetticismo. Aveva visto giusto Aron allora? Aveva visto giusto, forse no, forse non del tutto. Aron, come altri, Daniel Bell per esempio e altri ancora, alla fine degli anni 50, primi anni 60, immaginano che ci sia un declino dell'ideologia, ma in realtà stanno pensando al declino, al logoramento del marxismo, cioè stanno pensando al logoramento dell'ideologia che ha affascinato tanti intellettuali del XX secolo. Da questo punto di vista naturalmente hanno ragione, anche se anticipano un po' i tempi, perché alla fine si arriverà a questo, si arriverà al logoramento di quella sorta di religione laica che è il marxismo. Quindi in questo senso Aron, come Daniel Bell, avevano anche ragione. Questo non significa che finisca il pensiero ideologico inteso come un pensiero che non si confronta con la realtà, ma che vuole piegare la realtà a se stesso. In questo senso il pensiero ideologico è tuttora presente, anche se non ha più quella forza e soprattutto quella dignità intellettuale che il marxismo era riuscito a darti. Grazie ad Angelo Panebianco, che introduce l'oppio degli intellettuali di Remo Aron. Buona serata. Buona serata. Anche Angelo Panebianco ha appena ricordato il legame tra Aron e Sartre, e di quest'ultimo, come ho già accennato qualche settimana fa, il Saggiatore sta ripubblicando alcuni titoli importanti. Adesso è la volta di Saint-Eugène, commediante martire, 660 pagine, 44 euro, tradotto da Corrado Pavolini. Eugène è uno degli autori maledetti contemporanei dei Sartre, noto per gli scandali con i quali colpì ben pensanti, un personaggio che affascinò Sartre per la sua unicità. E a Genè proprio questo studioso, cioè Francesco Cataluccio, si era accostato dopo aver letto questo lungo saggio di Sartre, il quale spiega l'itinerario di Genè così descritto da Cataluccio. La sua decisione di diventare scrittore è, secondo Sartre, un itinerario di ascesi verso una santità capovolta da conquistarsi in solitudine tramite l'esercizio di una miseria. Se non può essere il fuorilegge dei romanzi d'appendice o dei polizieschi che ha divorato sin da piccolo, conclude Cataluccio, allora sarà il cantore, il celebratore di esistenze votate alla marginalità, all'illegalità e al vizio. E quindi l'analisi su Genè diventa per Sartre un trattato filosofico nel quale illustra il proprio esistenzialismo e la propria concezione della libertà. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Sabato prossimo ricorre il centenario di un evento che è molto caro ai cattolici, ma che in questi ultimi 100 anni non ha mancato di incuriosire molta gente, anche non credente, cioè l'apparizione di Fatima, il borgo portoghese, dove il 13 maggio del 1917 e poi ogni mese fino ad ottobre la Madonna apparve a tre pastorelli. Eravamo in quel periodo nel pieno della carneficina della Prima Guerra Mondiale, nel pieno della rivoluzione russa che poi avrebbe portato all'avvento del comunismo, e dunque questo evento sembrò assumere un evento profetico, premonitore di quello che sarebbe successo, anche per i messaggi che la Vergine affidò ai pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta. Le vicende di quell'episodio sono ricostruite dal giornalista Vincenzo Sansonetti nel libro Inchiesta di Fatima, pubblicato da Mondadori, 196 pagine, 19,50 €. Come scrive Vittorio Messori nell'introduzione del libro, quello di Fatima è un mistero che inquieta, che consola, molto diverso dalle apparizioni di Lourdes, dove scrive tutto è chiaro, la Vergine lì parlò poco, qui invece mandò molti messaggi e uno, ricorderete, fu custodito come un segreto per molti anni. Qui, in questo caso, a Fatima, aggiunge Messori, il dossier Vaticano invece è assai gonfio, continua ad aumentare e si è arricchito persino di uno studio teologico dello stesso responsabile, allora, dell'archivio segreto, e cioè il prefetto dell'ex Sant'Uffizio, quel cardinale Josef Ratzinger, che con la sua sapienza di studioso, aggiunge Messori, ha dovuto stendere una sorta di guida alla lettura dello sconcertante terzo segreto, del tutto imprevisto rispetto alle infinite ipotesi avanzate. E di qua parte appunto questa inchiesta di Sansonetti, che parte dall'analisi del luogo, il Portogallo di quegli anni, del periodo, appunto il 17 in cui il miracolo si manifestò, poi parla dei tre pastorelli e del miracolo più clamoroso che si manifestò in quelle giornate, cioè quello del sole che sembrò precipitare sulla folla, e naturalmente poi dei famosi tre segreti, l'ultimo dei quali, come ricordavo, venne svelato dal Vaticano soltanto nel 2000. E così Sansonetti ci ricostruisce lo svelamento di quel mistero. La divulgazione avviene in due fasi distinte. La prima, il 13 maggio 2000 a Fatima, proprio in occasione della beatificazione di Francesco e Giacinta. c'è il sensazionale e imprevisto annuncio, con la sintesi resa nota dal cardinale Angelo Sodano, il numero 2 della Santa Sede, che definisce la terza parte del segreto di Fatima una visione profetica paragonabile a quella della Sacra Scrittura, che non descrivono in senso fotografico i dettagli degli avvenimenti futuri, ma sintetizzano e condensano su un medesimo sfondo fatti che si distendono nel tempo in una successione, in una durata non precisate. Ancora Sodano. La visione di Fatima riguarda soprattutto la lotta dei sistemi atei contro la Chiesa e i cristiani e descrive l'immane sofferenza dei testimoni della fede nell'ultimo secolo del secondo millennio. Qualche settimana dopo, il 26 giugno 2000, viene fatto conoscere in Vaticano il testo integrale. Il terzo segreto fa riferimento, attraverso una serie di impressionanti immagini simboliche, alla persecuzione cui è sottoposta la Chiesa nell'epoca contemporanea e alle difficoltà e lacerazioni che vive. Emerge la crisi della fede e si parla di un vescovo vestito di bianco in cui Karol Wojtyla si riconosce. Il testo è accompagnato, per volontà di San Giovanni Paolo II, da un autorevole commento teologico del cardinale Josef Ratzinger, allora a capo della Congregazione per la Dottrina della Fede. E il libro si conclude con un invito a leggere Fatima come un'opportunità sempre attuale per ridurre, scrive l'autore, il distacco dell'uomo da Dio che segna per Maria il compito di indicarci la via per tornare a lei. Segreto o non segreto, conclude l'autore, quella della Vergine è un invito a guardare sempre in alto. E sulle apparizioni di Fatima, nonché sul segreto, è uscito un altro libro di un altro vaticanista, quello di famiglia cristiana, Saverio Gaeta. Questo libro si intitola Fatima, tutta la verità, la storia, i segreti, la consacrazione, pubblicato da Edizioni San Paolo, 240 pagine, 15 euro. Questo libro indaga in particolare ancora sul segreto e su un ipotetico allegato che lo avrebbe accompagnato, di cui però il Vaticano ha sempre smentito l'esistenza. Abbiamo citato l'allora cardinale Ratzinger, che nel frattempo è diventato Papa, poi Papa Emerito, e che poche settimane fa, il 16 aprile, ha compiuto 90 anni. A lui dedica un libro in questa occasione Giovan Battista Brunori, archivista vaticano, giornalista vaticanista del TG2, Benedetto XVI, Fede e Profezia del primo Papa Emerito della storia. È pubblicato da Pauline, 448 pagine, 28 euro. E questa è una biografia molto completa su Benedetto XVI, un prelato considerato sbrigativamente conservatore, che ha però compiuto il gesto più rivoluzionario che ci si potesse attendere da un pontefice, ossia le dimissioni che hanno portato a un periodo ormai piuttosto lungo di coabitazione tra un Papa Emerito e uno regnante. Ratzinger, definito dall'autore papa timido ma dal pensiero forte e brillante, è stato soprattutto un teologo, un uomo di pensiero che ha cercato di conciliare fede e ragione, e qui lo riscopriamo attraverso l'attenta ricostruzione del suo pensiero e della sua vita, attraverso l'analisi degli interventi che ha fatto e le testimonianze di molti che gli sono stati vicini, a partire dal fratello. Insomma, spiega l'autore, questa è una biografia dei fatti, degli incontri che hanno seguito la storia personale di Benedetto XVI, ma anche la narrazione del pensiero di quest'uomo, delle sue riflessioni sulla Chiesa e sul mondo di oggi, le profezie sul futuro, i suoi studi nei quali si è gettato fin da ragazzo con entusiasmo. E perciò ampio spazio qui dedicato all'attività del Papa come un Papa riformatore. Parliamo ancora di religioni, ma in questo caso di islamismo, col libro di Ciro Sbailò, che è uno studioso di diritto islamico all'Università Core di Enna e che ha scritto I diritti di Dio, le cinque sfide dell'Islam all'Occidente, pubblicato dalla Libreria Universitaria Edizioni, 160 pagine, 12,90 euro. Lo studioso qui affronta un tema centrale nelle polemiche nelle quali siamo immersi in questi anni, al centro anche delle elezioni appunto in Francia, dove, ricorda subito l'autore, il numero dei musulmani praticanti ormai ha superato quello dei cattolici praticanti, tanto che molte comunità islamiche hanno chiedono alle autorità francesi, civili e religiose, di poter trasformare in moschee le chiese cattoliche, come molto spesso si era fatto, per la verità, nelle due direzioni nei secoli precedenti. E questo naturalmente è una conferma dell'espansione dell'islamismo in atto, che oramai interessa anche il nostro paese. Questa espansione naturalmente mette in grande imbarazzo i costituzionalisti europei, oltre che le opinioni pubbliche. Perché? Perché i costituzionalisti devono fare i conti con richieste e con principi da parte delle comunità islamiche, che naturalmente cozzano con molti principi delle costituzioni europee. E appunto questo tema affronta questo libro, non limitandoci a ricorrere a presupposti che, scrive l'autore, rischiano di essere inservibili. In particolare, conclude Sbailò, dobbiamo affrontare appunto le cinque sfide che caratterizzano questa avanzata islamica, che sono rappresentate naturalmente dal quadro di riferimento, quello che chiama il nuovo ordine geopolitico, dal comunitarismo, dal superamento della neutralizzazione della religione nello spazio pubblico, dall'integrazione antagonista, nel senso che spesso l'Islam, spiega l'autore, si adegua a una cultura antagonista molto radicata nelle società occidentali e che naturalmente non ha nulla a che vedere con l'appartenenza religiosa, ma che costituisce un po' un brodo di cultura nel quale appunto si integra l'antagonismo musulmano, e infine il fondamento metafisico del diritto, che mette in discussione, spiega Sbailò, certe recenti rivoluzioni del pensiero giuridico. Insomma, conclude l'autore, la sfida che ci lancia l'Islam è quella di rimettere in gioco il patrimonio dei valori e delle credenze sviluppatesi nell'Europa moderna per quel che riguarda il rapporto tra religione e spazio pubblico. E questo non significa naturalmente vedere nell'Islam la risposta alla crisi dell'Occidente, ma piuttosto costruire, scrive, un diritto pubblico che tenga conto delle generazioni future e di quelle passate, ovvero che sia attento a custodire anche il presupposto dell'esistenza stessa di un ordinamento giuridico, vale a dire l'osservanza delle regole del linguaggio e della comunicazione, ovvero della realtà. Ad esempio, spiega l'autore, interdicendo espressamente ogni forma di violenza al linguaggio e alla logica, come quando si vuole ridurre tutto a mera convenzione linguistica, espressioni come matrimonio, persona, essere umano o vita. In particolare sul tema del terrorismo islamico torna un libro di Marina Calculli, che è un'esperta di relazioni internazionali del Medio Oriente, di Francesco Strazzari, esperto a sua volta di sicurezza europea, che hanno scritto Terrore sovrano, Stato e Jihad nell'età post-liberale, pubblicato al Mulino, 212 pagine, 16 euro. In questo libro i due autori affrontano un tema specifico molto importante, quello del nesso tra terrore, guerra e statualità, per trarre delle conclusioni abbastanza preoccupanti per quanto riguarda soprattutto l'Unione Europea, la quale è sfidata da questa insorgenza del terrorismo, che si dà anche delle parvenze appunto di organizzazione statuale, insorgenza del terrorismo che mette a repentaglio innanzitutto la sicurezza dell'Unione Europea, soprattutto per l'incapacità di costruire una risposta organica, anche viste le politiche di Donald Trump, che sembra un po' abbandonare al suo destino l'Europa, e mette e soprattutto rappresenta una sfida ai principi liberali ai quali naturalmente si è ispirata la costruzione dell'Unione Europea e la Costituzione, e si ispirano le costituzioni di tutti i paesi europei, o almeno di gran parte dell'Unione. E a questo punto il confettino. Una tenera storia di un bambino Youssef che scappa dalla guerra per recuperare la sua amica Mariam è quella raccontata da Isabella Paglia e illustrata da Sonia Maria Luce Possentini nel libro Il sogno di Youssef, pubblicato da Camelo Zampa, 15 euro, che racconta appunto il tentativo di ritrovare l'amica dispersa in mare. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Peter Bescapè in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.